10:30, che freschino, eh? 3 novembre, venerdì, vigilia di weekend. Oggi però ci riscaldiamo con una puntata molto impegnativa di intersezione tra Bologna e Ferrara. Fortunatamente non sono solo, anche se non posso promettere il sole, vi prometto la voce di Alfredo Pasquali. E ciao, la mantengo. Willy, oggi il sole è una gara dura, prometterla, però piovono concerti. Molti, tanti, e infatti, come ho detto, è una puntata molto impegnativa ed intersezione, così daremo voce sia a Bologna che a Ferrara. Ma anche un nuovo gemellaggio col quale partiremo. Forlì. Esattamente, perché da Forlì troviamo intanto un grande musicista, che è Joe Scofield, e poi una nuova piazza alla quale daremo una giusta attenzione. Per cui, già nominate le varie sedi, aggiungiamo anche questa romagnola con un chitarrista che ha avuto diverse collaborazioni, anche se ormai attempato, da lucidità al suono e allo stesso tempo originalità alla composizione. Con chi sarà in concerto, dove e quando? Dunque, Joe Scofield, grande chitarrista, assieme a Vince Archer al basso e Bill Stewart alla batteria, al Nyman, vecchia conoscenza, sì, che ritorna, siamo ben felici. Sì. Scofield, i meriti Scofield nella sua carriera lunga sono tantissimi. Ricordiamo la sua collaborazione con lo stesso Jerry Mulligan, per esempio, o la più conosciuta collaborazione con Miles Davis, per dire, passando per tanti altri, Billy Coban e tanti altri, anche diversi generi peraltro. Lui ha un tipo di chitarra, a mio parere, molto blues e molto country. Americana e molto, però riesce in qualche modo a, appunto, a entrare coi piedi nel piatto del jazz con una grande capacità, perché appunto questo suo stile è abbastanza inconfondibile, che è lontanissimo da, insomma, Wes Montgomery, per dire, o Pat Metheny, con cui peraltro ha collaborato. Insomma, è molto più austero, qualcuno direbbe sbagliatamente grezzo, no? Rispetto ad altri solisti virtuosi, però questa grande capacità espressiva è una grande maestria, evidentemente. Io l'ho visto l'ultima volta, Scofield, all'Aquila, che interpretava le canzoni di Beatles con una grande orchestra. Quindi anche una capacità di intrattenimento. Hai detto bene, un bellissimo intrattenimento, perché le canzoni dei Beatles erano trattate in modo egregio. Tra l'altro, già che ci siamo, i Beatles hanno pubblicato oggi l'ultimo. Ho letto. Che è una cosa che per me è tristissima, rivocando molto John Lennon. Chissà, qualcosa, ci ha messo un tampino dell'intelligenza artificiale, ma insomma. Chissà, e non ho molta fiducia in tutto ciò. Però c'era un articolo su Repubblica, sul Fatto Quotidiano, scusami questa digressione, certo, sul rock. Il fatto che oggi facciano epopea l'ultimo disco dei Rolling Stones e la rivocazione dei Beatles, qualcosa vuol dire. da riflettere. Una certa stanchezza esiste. Sì. E intanto hai citato Pat Metheny, nella selezione che ho voluto portare. Infatti John Scofield è con Pat Metheny, ma perfetto, allo stesso tempo è con Bill Stewart, che sarà presente nella formazione a Forlì al Naima. Bravissimo. Apertura del Bologna Jazz Festival. Queste corde a confronto tra John Scofield e Pat Metheny, proprio per le due sonorità come sono state descritte in precedenza, una più asciutta, se vogliamo, più americana, quell'altra più morbida, più musica per innamorati a volte, se vogliamo, no? La piacevole critica amichevole che abbiamo dato a Pat Metheny, questa musica molto fusion, dolce, allo stesso tempo quella più con lame di

Donne, vita, libertà e quanta libertà anche nella musica di Iromi. Cambiamo aspetto geografico ma manteniamo una grande qualità. Perché questo stacco? Perché sarà il primo concerto nella rassegna del Bologna Jazz Festival con produzione a teatro. Teatro Arena del Sole, sarà martedì 7 novembre. Iromi, Sonic Wonder, anche se ovviamente è la presentazione di un disco nuovo che sarà all'Arena del Sole. Stiamo ascoltando il disco Move. E qui si muove Iromi, un bel movimento. Allora, Iromi al pianoforte, Adamo Ferrer alla tromba, Adrian Ferro al basso elettrico, Jim Cogliai alla batteria. Questo è il Teatro Arena del Sole, questo è importante dirlo. Noi già lo vedemmo, diciamo già la volta scorsa, sì, certo. Al Teatro Comunale di Ferrara, era in piano solo e ci stupì non solo cose che già conoscevamo, le acrobazie incredibili sulla tastiera di questa ultra virtuosa, peraltro è un fan prodige, all'età di 6 anni già era musicista formata, apprezzata sul pianoforte. Poi in realtà è stato, sai chi l'ha scoperta bene? Chick Corea. Ah. E quindi l'ha portato nel grande set. Questo. Un padre d'arte notevole, direi. Sì, e infatti poi si pubblica un disco, Jazz in the Garden, il jazz in giardino, con Stanley Clark e Lenny White. Questo quindi è un certo tipo di direzione. Ma ci stupì anche, dicevo, la capacità compositiva e anche di spessore della musicista, che magari molto spesso viene soffocata dalle sue capacità virtuosistiche. Sarà interessante vederlo non da piano solo, ma in quartetto, come se funziona meglio, funziona meno bene, però sta di fatto che alto un cacio, come dire, poco. Sì, non potrebbe diversamente giocare. Alta per gli essere politicamente corretti, e invece è un vulcano di cose, di è un concentrato di nitroglicerina musicale. Sì, e sarà martedì 7 novembre 21:15 Teatro Arena del Sole, l'inizio delle produzioni a teatro del Bologna Jazz Festival. Però parliamo anche di club, perché questa sera alle 21:30 al binario 69, e ne daremo approfondimento poi con altri incontri, il progetto Venus Ship, mentre sempre a Bologna lo Sghetto Club Cubale Sextet New Latin Sound, questo alle ore 23. Quindi una bella notte in jazz, mantenendo le loro identità, e i club insieme al Bologna Jazz Festival portano avanti questa ricchissima rassegna. Sabato al Locomotive alle ore 21, Mono Neon. E per quanto riguarda queste tre sedi a Bologna, come ho detto, con un'attenzione eterogenea, senza ovviamente cambiare le linee di direzione artistica, ma mantenendo la qualità e le attinenze con il jazz, con Binario 69 Sghetto Club e Locomotive Club, sono i tre, chiamiamo, club che danno un'occhiata anche a un pubblico più giovane, come è giusto che sia. E non solo, ma per quello che è invece la Sala Bossi del Conservatorio Martini di Bologna, abbiamo parlato tanto, Alfredo, di Sketch of Spain e dintorni, omaggio a Miles Davis e Gil Evans. Allora, io ho contattato il trombettista, cioè l'interprete, ed è un po' preoccupato anche nella breve conversazione che ho tenuto con Alessandro Presti, perché in questo incontro l'attore in scena nel ruolo di Miles Davis lui stesso ha detto sarò io. È un bel carico, infatti. Allora, tanto sono felicissimo di far parte di questo concerto, di questo progetto che vede, insomma, l'orchestra del Conservatorio di Bologna, l'orchestra jazz diretta dal maestro Corcella, e me alla tromba, che dovrò fare, insomma, il ruolo il difficilissimo ruolo di Miles Davis. Insomma, non sono molto contento di partecipare a questo concerto, ecco. Le modalità sono, insomma, faremo gli arrangiamenti originali del disco, poi ci saranno altri brani che il maestro Corcella, con arrangiamenti suoi che ha scritto, che ha arrangiato per l'occasione, quindi arriverò un giorno prima. Insomma, faremo delle prove, monteremo il concerto, e poi sono dischi molto complessi, musica molto difficile, scritta da grandi maestri della storia del jazz, in questo caso Gil Evans, che io personalmente adoro tantissimo, conosco i dischi che ha inciso con Miles Davis. Insomma, è veramente un bel lavoro questo qui, e sono, ribadisco la mia felicità di questa cosa. E anche la difficoltà, l'impegno. Sì, la difficoltà, anche perché diciamo il ruolo di Miles in questo caso è, ci sono tanti parti scritte, ma comunque, diciamo, in questo disco lui ha molta libertà dal punto di vista tematico, quindi insomma non è facile riproporre i temi per come li ha interpretati lui, quindi insomma sicuramente abbiamo una linea guida per quanto riguarda i temi soli, chiaramente sono cose che in questo caso reinterpreterò sul momento, ecco, quindi insomma certo. Miles è stato sempre un grandissimo interprete, in questo disco diciamo, ha avuto ancora di più spazio, per ancora più libertà rispetto ad altri dischi che ha registrato con Gil Evans come Porgy and Bess oppure Miles Ahead, quindi disco molto particolare. Sì, infatti ricordiamo anche che fa parte di un aspetto a mio avviso di dicotomia, di passaggio, perché 1959 sì. Kind of Blue, che a sua volta ha tracciato linee ben definite e ha dato via a uno spazio aperto a proposito quanto mai fondamentale anche nel modern jazz. A sua volta questa ripartenza tra le tante rivoluzioni portate da Miles Davis con Sketch of Spain è altrettanto importante, insomma. Sì, è un disco diciamo fondamentale per appunto marcare sì. quello che è la fine di un, insomma possiamo definire la fine di un periodo del jazz e l'inizio di un altro periodo del jazz. Io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione del tuo tempo, ti auguro buon lavoro, ma anche buon divertimento secondo me. Sì, assolutamente, grazie mille a voi. Disco, indubbiamente, l'abbiamo già portato come base, abbiamo ascoltato qualche brano un po' più esteso da Sketches of Spain. Per quanto riguarda la Martini Big Band, insieme ad Alessandro Presti, trombettista della formazione, ne abbiamo dato un po' un assaggio esteso, in questo caso sarà in Sala Bossi del Conservatorio Martini. Per quanto riguarda la serata di sabato 4 novembre alle ore 21:15. Poi noi adesso facciamo un catalogo audio di quello che è nella settimana, però ricordo il nostro sito, il sito del Bologna Jazz Festival, il sito del Torrione, il Jazz Club di Ferrara, per averne una visione un po' più con calma e con maggiore anche dilatarsi nel tempo, anche se noi ogni venerdì con il Jazz Live ne daremo un focus. Per quanto riguarda i percorsi di intersezione, direi di iniziare con questi percorsi di intersezione. Pensa che ve n'è uno che comprende questa settimana Bologna e la prossima settimana Ferrara. È un duo, Caldarazzo-Zenon. Sì, perché è un duo direi notevolissimo, francamente. In realtà è Joe Caldarazzo Quartet, che sarà mercoledì 8. Il featuring è di Zenon, è vero. E sarà mercoledì 8 novembre, parliamo della cantina Bentivoglio, la infatti, gloria nostrana. Quindi abbiamo Edward McLeod sulla batteria, Orlando Le Fleming al contrabbasso, ma poi abbiamo Joe Calderasso al pianoforte e Miguel Zenon al contralto. Chi li ha ascoltati sa di cosa sto parlando. Calderasso è stato una star in ambienti anche di musica sul funky, versante, ma non sì. solo, pianista raffinatissimo. E Zenon è, direi che con questo sabor latino, però molto dentro al linguaggio bopper, è una delle più belle realtà del sassofono contemporaneo. Sentire un concerto di Zenon è comunque sempre uno sballo, che è già stato ospite peraltro col suo gruppo alla cantina, quindi è anche un ritorno. Dicevi giustamente seguire i siti o del festival, anche il nostro che seguirà passo passo, come c'è stato ieri col venerdì quando il festival ha avuto il suo via, e i concerti e quant'altro, anche perché tantissime sono le cose e quindi non è che vi diciamo tutte, perché altrimenti vi ubriachiamo per niente. Dovrei solo dire una cosa abbastanza curiosa da... Ah, bello, questo mi interessa, vai. Torniamo a Forlì, al Naima Club. In questo coordinamento arriva questa cantante blues dai Balcani, dalla Serbia. Ah. Quindi vedremo come si inserisce questo quasi Oriente con il blues. Allora, mi correggo, mi faccio perdonare per questa imperfezione, giusto Alfredo, che Joy Calderazzo, la sua formazione è il featuring di Zenon. Allora, io ho portato Joy Calderazzo per questa puntata. Nella prossima puntata, dove lo presenteremo invece a Ferrara, porterò un disco di Zenon. Sì, perché molti di questi musicisti, peraltro, diciamo per chi avesse un appuntamento, poi si ripresentano su momenti diversi. Per esempio Bill Carothers, che è un ottimo pianista, anche lui sarà in doppio appuntamento. Sì, sarà a Modena, Bologna, Ferrara, cioè quindi sarà molto presente. Anche questo lavoro in cui si riconosce la linea Blue Note per Joy Calderazzo, e il contrabbassista è un componente di diverse formazioni che ha lavorato anche con lo stesso pianista qua protagonista. L'abbiamo ascoltato in duo al Paradiso Jazz, risponde il nome di John Patitucci. Oh, un signore qualsiasi, vero? Visto che abbiamo aperto anche lo spazio Ferrar, sempre aperto e ci mancherebbe a maggior ragione con l'intersezione con il Bologna Jazz Festival, restiamo a Ferrara per il concerto di domenica. Arrivano i Bad Plus, ma è totalmente diversa la formazione, sì. O in gran parte. Allora, diversa. Sabato c'è Bill Carothers. Ne parleremo dopo. Domenica i Bad Plus, che noi abbiamo visto anche le scuderie al Festival di Bologna, il classico trio con Nathan Iverson, Anderson e Dave King. questo trio che ha fatto 20 anni di collaborazione, sì, in maniera splendida, ripercorrendo anche molti pezzi famosi del pop e del rock, riadattandoli col minimalismo di Iverson, la colonna sonora ferrea di Anderson e la batteria vulcanica di Dave King. Poi Iverson è stato via, è stato sostituito nel trio da Orrin Evans, che è bravo, ma era la brutta copia del trio precedente, quindi non funzionava. Allora giustamente hanno fatto famoso il metabolismo del lutto, hanno chiuso quell'esperienza del Best Plus Club e hanno cambiato completamente la formazione e l'organico, e creando una musica nuova e molto molto interessante. A mio parere i dischi sono notevoli. Dave King la batteria ancora, Anderson al contrabbasso e ok, la vecchia parte. Poi c'è invece il nuovo e cambia completamente anche la sonorità del gruppo, perché abbiamo al sax tenore Chris Pead con il suo classico sax molto ovattato, quasi fosse un oboe, e poi abbiamo alla Ben Monder alla chitarra, e quindi c'è l'impasto musicale è del tutto nuovo. E devo dire che col coraggio di aver abbandonato la vecchia formula così vincente ma non più riproponibile, per me il Bel Plus ci ha guadagnato. Addirittura? No, sì. Non guadagnato rispetto alla vecchia formazione che rimarrà mito, ma rispetto a questo periodo un po' così di sopravvivenza. Non hanno voluto sopravvivere, ma piuttosto hanno cambiato completamente. E comunque giravano lo stesso come Bel Plus, giri comunque, beh, anche perché certo, è un bel gruppo con Orrin. Però questo è diverso, è nuovo. Lo ascoltiamo in un concerto che ho tratto dal Jazz Club Old Five di Praga e poi torniamo in diretta, questi Bad Plus. Solita incursione e parere personale, la ritmica incalzante la sento comunque anche dei primi Bad Plus. Sì, ma infatti si sente che c'è la continuità è garantita da Anderson e Dave King. Esatto. E invece la sonorità, ma anche l'esposizione del tema, perché Aitan Iverson era questa capacità di fare il tema poi lavorarci dietro in maniera minimalista, sconvolgendo. Sì, sì. Invece è più scandito. È scandito, esattamente, è più nitido. Conclusione con questo brano tratto da un concerto a Praga dei Bad Plus con la nuova formazione. Bel brano. Andiamo. Sì, lo so, questo è nelle tue corde. Ho capito che poteva. Questa ripetizione iterativa del tema e sotto la batteria ci dà. È nelle tue corde questo, sì. Andiamo verso la conclusione della nostra prima parte di Jazz Live con, beh, ricordiamolo intanto, che sarà domenica 5 novembre, quindi questa domenica concluderemo il primo weekend di novembre con questo concerto al Dorione con The Bad Plus, con Chris Speed alle ore 21:15. Qui non si parla più di main concert, ormai è tutto sì. Diciamo, ammettiamolo ai nostri ascoltatori che siamo sommersi dai concerti, perché dobbiamo sorvolare su Parma Frontiere, sull'inizio del Festival Cormons, Jazz & Wine, ne abbiamo già fin troppi dalle nostre parti a commentare. A tra poco. Scofield, che oggi ci tiene compagnia nei rientri e in tutto quello che è motivo di conversazione e di interplay dialogico nella presentazione tra Bologna e Ferrara, e non solo, visto che parliamo di John Scofield qua insieme a un trio. Quando avevo 16-17 anni, per sentirmi grande compravo i dischi di Medeschi, Martin e Wood, dicendo io ascolto l'avanguardia, hai capito? Sì. Non è esatto, esatto, però 16 anni più che perdonabile, anzi meritevole. È un peccato di gioventù, dai Alfredo, no? C'è chi gioca a farsi la barba anche quando non ce l'ha. Io ascoltavo i dischi di Medeschi, Martin & Wood. Tra l'altro Medeschi era in Basilica di Santa Maria dei Servi ad ascoltare John Zorn. Ah sì, c'era anche lui. C'era anche Medeschi, quindi ringrazio magari si è preso qualche idea sull'organo. Live Radio Città Fujiko, seconda parte, certamente procediamo e dopo l'appuntamento che abbiamo dato congedo momentaneo per quanto riguarda la domenica 5 novembre con la formazione Bad Plus, restiamo in questo caso in intersezione, il caso di dirlo, per quanto riguarda l'appuntamento di sabato che sarà sia al Torrione per appunto il sabato con Bill Carothers e allo stesso tempo però la domenica c'è un cambio perché Bill Carothers verrà al Camera Jazz Club a Bologna, per cui come hai detto prima c'è questa possibilità di intreccio vero e proprio nelle giornate del jazz. Bill Carothers sarà in piano solo, tu hai già ascoltato questo musicista e tra l'altro ne sei rimasto anche molto colpito. Sì, successe qualche annetto dietro quando arrivò in parallelo alla mostra su De Chirico al Palazzo dei Diamanti, wow. Quindi qualche anno c'era questa, sappiamo che De Chirico e suo fratello Savinio andarono entusiasti in guerra, convinti di che fosse una cosa meravigliosa stare nelle trincee, tornarono mezzi matti e massacrati come tanti altri testa. Artisti che videro la differenza tra l'immaginario e la realtà, e lui allora al Torrione proprio interpretava delle musiche della prima guerra mondiale e lo fece naturalmente, fu una gran bella sorpresa, devo dire sinceramente. Lui è un musicista altro enfant prodigio, da 5 anni Carothers si cimenta sullo strumento, ha suonato con tantissimi musicisti come in qualche modo Spari Partner, che è Curtis Fowler, Billy Higgins, Freddie Hubbard, cioè, addirittura sì sì, molto dedito all'insegnamento. Certo. Quindi è più conosciuto negli ambienti dei nella dei, formazione e tra gli detti ai lavori, conosciuto fuori magari un po' meno a Bologna e Ferrara sì, perché è già fa arrivato, fa anche dei corsi e quindi tornerà a Ferrara questa volta lo troveremo nella giornata piano di solo, sabato ancora piano solo, solo a piedi scalzi. Questa è una credo una volta magari nel frattempo col freddo con l'umido si mette anche lì, però poi non lo Ferrara. So. Sonorità indubbiamente molto poetiche, molto valzerino questo. Sì, questo è Che Sera Sarà, certo, infatti. Questo è una ripresa molto dolce, molto melodica, ma da quello che ho ascoltato Bill Carothers ha una composizione molto introspettiva, molto poetica, ecco, molto racconta e comunica molto. Sarà... Sì, lui dice che ha guardato molto Oscar Peterson, a me sembra che anche Bill Evans sapeva guardare. Beh, a me sì. Esatto, anche Bill Evans indubbiamente è in queste corde. E sarà il concerto di sabato per il Torrione, inerente al Bologna Jazz Festival, come gli stessi Bad Plus, che invece saranno domenica per Bill Carothers. C'è una replica bolognese alle ore 21:30 al Camera Jazz Music Club. Dai club al conservatorio, oggi li abbiamo trattati tutti e due, ne faremo anche per quanto riguarda il Fresco Baldi di Ferrara, Martini di Bologna in partenza con Alessandro Presti e The Sketch of Spain, e ritorniamo poi a vedere nel procedere del programma come sarà costantemente presente anche il Fresco Baldi di Ferrara. Con un motivo di fermo per un attimo, mandiamo gli auguri di pronta guarigione al buon Roberto Manuzzi. Doveva essere subito guarito, infatti doveva essere direttore per quanto riguarda la serata di venerdì di questa sera al Torrione inerente al programma del Jazz Club Estense. Ha preso le consegne Daniele Santimone, fratello di Alfonso, che insomma ci racconterà un pochettino anche, ho avuto qualche curiosità nella conversazione con Daniele, perché insomma da musicista, direttore d'orchestra, queste sensazioni che vi sono nel portare questo accompagnamento, differenze, convergenze, divergenze. Musiche di musicisti fondamentali della tradizione del jazz come Mingus, Wayne Shorter, ma anche qualche brano, per esempio dello stesso Manuzzi, un brano di Marangolo, grande sassofonista che ha collaborato per esempio anche con Guccini, un brano di un grandissimo sassofonista italiano che si chiama Maurizio Gianmarco, quindi un repertorio diciamo che pesca da sorgenti molto eterogenee ma estremamente ricche di sostanza musicale, direi. Ah, un approccio, beh, io ho una certa esperienza di direzione, quindi ho un approccio abbastanza, come posso dire, fisico alla direzione d'orchestra. Non sto molto fermo di fronte ai musicisti, perché penso che sia anche un modo per comunicare una certa energia, insomma, che trovo necessaria per esprimere la musica. Quindi c'è un approccio ovviamente di lavoro sui dettagli, ma anche di tentativo di comunicare una certa energia che si vuole poi restituire al pubblico. Hai portato nella esecuzione brani, come hai detto, di alcuni standard di sì. Manuzzi, c'è anche qualcosa di tuo? No, in questo caso non ci sarà, potrebbe esserci, in realtà dobbiamo in realtà decidere se lo faremo o meno, ma è un arrangiamento che io ho fatto di un brano dei Weather Report che si chiama Black Market, quindi non sono certo al 100% che sarà nel programma, lo vedremo poi alle prove che faremo il giorno stesso al Torrione, quindi insomma è in fieria faccenda, però abbiamo comunque musica di grande spessore che sicuramente manterrà vivo l'interesse di chi, dei presenti. Essere alla direzione, essere protagonista allo stesso modo però come musicista, beh, ci puoi dire qualcosa di più su questo aspetto divergente e convergente? Nel caso specifico io non avrò un ruolo di, diciamo, strumentista in quel caso lì, sarò essenzialmente occupato a mantenere le fila della compagine. Quando può succedere una situazione di questo tipo in cui si è impegnati a dirigere e a eseguire, ovviamente la faccenda diventa per certi aspetti più complessa ma anche più avvincente, quindi non sarà il caso di questo venerdì, ma le volte che è successo è sempre stato un grande piacere, oltre a chiaramente ad avere enorme, come dire, a porre una grande responsabilità, ulteriore responsabilità, è un ulteriore piacere proprio perché si partecipa ancora di più a quel tipo di energia che si cerca di comunicare. La figura del coach giocatore, insomma. Esattamente. È quanto mai particolare con la big band del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. La direzione sarà di Daniele Santimone, che ringraziamo tantissimo, e appuntamento al Torrione. Grazie Daniele. Grazie a voi, buona giornata, un saluto e speriamo di vedervi numerosi al Torrione. band del Frescobaldi che sarà questa sera protagonista. Ha citato Daniele, a sua volta in direzione Daniele Santimone, il fratello di Alfonso, ha citato questo sassofonista che state ascoltando, Antonio Marangolo. Ne saranno portate anche alcune sue composizioni. Allora, nella selezione musicale ho voluto dare una continuità anche in musica a queste parole. Ringrazio tanto per la disponibilità Daniele Santimone. Siamo arrivati, abbiamo detto quasi tutto. No, allora volevo aggiungere una cosa importante per giovedì, no? Abbiamo parlato di Bill Carters, che ha una grande attenzione per quanto riguarda gli incontri, la formazione, la divulgazione appunto legata a queste modalità. Sarà per quanto riguarda giovedì 9 novembre a Bologna alle 21:30 al Camera Jazz Music Club per un saggio in forma di concerto per il premio Massimo Mutti. Il Bill Carters sarà in direzione di tutto ciò, per cui... sono fortunati i ragazzi del nostro conservatorio, capito? Settore jazz, perché ogni ottobre, in novembre passa la gran gente, in questo caso Bill Carters. Sì, ne hanno viste di cotte di crude, di personaggi di altissimo livello, ed è, sai, quando stai con i grandi un po' cresce. Bisogna giocare con i buoni, per... sì, meglio che con i tristi, sì. Restando al Camera Jazz, di cui parleremo magari col nostro amico Piero Dorici, abbiamo alle 22, mercoledì 8 novembre, Emily Braden Quartet. Ma per quanto riguarda invece quest'oggi, che abbiamo dato un pochettino di attenzione ai club, vi parlavo di Binario 69. Allora, giovedì 9 novembre, a parte che c'è il mio DJ set, ma questo è poco importante. No, però no, questo c'è. È rilevantissimo. Però c'è, e per quello che è invece il concerto, ho voluto contattare Michele Bonifati, che già conoscevo nel progetto Among, il suo ultimo lavoro Three Knots, per l'etichetta Nausica.org, quella di Fazzini XY Quartet. Sì. Molto interessante, molto sì. Originale. Il glaciale Fazzini. Sì, però no, bravo, bravissimo. Per me è molto in gamba, molto bravo, talentuoso. In conclusione, allora, ricordiamo che il Binario in tanti club che sono, sì, della galassia del Festival Locomotive, Binario, Sghetto Club, un binario, sì, per niente triste e solitario, anzi tutt'altro, guarda, in buona compagnia. Allora, Three Knots è il primo disco di questo gruppo, è uscito ad aprile di quest'anno, e Among è il mio primo gruppo da band leader, e assieme a me ci sono Evita Polidoro alla batteria e alla voce, Manuel Calumi al sax e Federico Pierantoni al trombone. E in questo disco, diciamo, abbiamo presentato un primo lavoro che è composto da composizioni scritte da me per la maggior parte e da due, diciamo, cover, nel senso che sono rivisitazioni di brani, di canzoni, in particolare una canzone di John Lennon e una canzone di Rage Against the Machine, che così mi piaceva portare all'interno del panorama sonoro di questo gruppo, mentre invece le altre sono composizioni mie. In realtà sono composizioni mie che vanno, cioè che ho scritto in un arco temporale molto ampio. Questo mio primo lavoro mi ha richiesto molto tempo. Ci sono brani che ho scritto quasi 10 anni fa, brani che ho scritto un anno fa, quindi c'è veramente un po' di storia mia in questo lavoro. Ma nella mia idea sono di questo lavoro è un lavoro che veramente rappresenta il mio percorso fino ad oggi, quindi c'è tutta la componente elettrica legata allo strumento, per il modo in cui io ho sempre pensato e immaginato la chitarra elettrica, quindi c'è un elemento sonoro legato al processo della chitarra, lo spazio che la chitarra dà all'interno dell'ascolto. C'è l'elemento jazzistico che, diciamo, fa parte del percorso di tutti e quattro noi, ma che sia nella scrittura che soprattutto nel modo di porsi di tutti i musicisti, nelle interazioni relative, nel modo di approcciarsi alla scrittura. E poi c'è un elemento invece più, diciamo, anche qui elettrico, legato, se vogliamo, ad alcuni rimandi del rock che viene fuori dagli ascolti che io e tutti quanti in realtà abbiamo fatto, che si traducono in alcuni momenti più ritmici, nervosi, ecco, più dinamici in quella direzione. Sì, è una caratteristica singolare, cioè ormai non è l'unica, nel senso che la possibilità di avere un contributo vocale dalla voce in realtà mi viene in mente un musicista che mi aveva molto colpito tanti anni fa, che era Stefano Tamborrino, che era un progetto su Hendrix. Io non me lo aspettavo assolutamente, perché non lo sapevo. In un live vedo che si mette a cantare, è una cosa che mi aveva molto colpito. Però Evita è una musicista molto particolare, nel senso che suona la batteria in maniera strepitosa, canta benissimo, ma in realtà ha una musicalità che su qualsiasi strumento prenda, anche se non lo sa suonare, ha proprio un approccio che è iper musicale. E il motivo per cui l'ho chiamato, l'ho coinvolto in questo gruppo, era perché ab origine mi piaceva l'idea di poter avere un elemento di canto proprio vocale all'interno del gruppo, che era una cosa che fino adesso non avevo mai sperimentato nei miei gruppi, che invece mi interessa perché penso che dia una chiave comunicativa importante, ecco, anche per poter affrontare alcuni aspetti sonori, alcune tipologie di brani, da in qualche modo uno squarcio comunicativo anche ulteriore. Con Giovedì 9 siamo arrivati alla conclusione, poi ci risentiamo venerdì 10 con una nuova puntata di Jazz Live. A bel raggio di sole. Temo che abbiamo un po' disorientato noi stessi, ma anche chi ci ascolta, tra voci, numeri, date, ma ricordiamo sempre che c'è il nostro sito che giorno per giorno vi dà tutte le delucidazioni necessarie per sapere dove andare, cosa ascoltare, chi ascoltare, eccetera. Sì, eccetera. Però non potevamo fare altrimenti. Ah, no, credo. No, ma come vai, che ci vuoi andare dall'altra parte? No, certo che no. Noi, per quanto riguarda tutto ciò, siamo noi ci sguastiamo in trincea. No, ci sguastiamo, altro che in trincea, siamo ben felici. Among, grazie a Michele Bonifati, giovedì 9 novembre al binario 69, e abbiamo portato a termine anche questa settimana. Grazie dell'attenzione alle ascoltatrici e agli ascoltatori, vi auguriamo un buonissimo weekend in jazz e buoni concerti a tutti. Ciao, al prossimo venerdì.